Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Gli alunni non sono tutti uguali. Molti dei nostri figli, almeno quelli che frequentano la seconda e la quinta della scuola primaria, sono alle prese in questi giorni con i test INVALSI. Sono i test introdotti dal Ministero dell'Istruzione per monitorare i livelli di apprendimento del nostro sistema scolastico di base. Giovedì c'è stata la prova di italiano, poi ci sarà quella di matematica e anche per le medie. Ma non tutti i bambini hanno affrontato la prova. Dislessici, disgrafici, discalculici, infatti, non hanno avuto il permesso dal Ministero di utilizzare quegli strumenti che usano abitualmente a scuola, come computer, calcolatrice, eccetera. Così molti genitori hanno deciso di tenerli a casa, come ci spiega Laura Ceccon, mamma di un bambino dislessico. Allora, mio figlio non ha affrontato la prova INVALSI perché non poteva affrontarla. La nostra è stata una scelta obbligata, tenerlo a casa, perché non aveva gli strumenti adeguati per poterla affrontare, che sono ad esempio il computer che lui usa normalmente a scuola e a casa per leggere e scrivere. Senza computer avrebbe forse letto un periodo di un test che invece è di pagine e pagine da leggere, e quindi per non sottoporlo ad uno stress e anche ad una umiliazione veramente incredibile, abbiamo preferito non farla. Perché suo figlio è dislessico. Mio figlio è dislessico e disgrafico, anche severo, quindi lui ha una lettura che è pari, diciamo, alla lettura di un bambino di prima. E pertanto, se non è aiutato con una sintesi vocale al computer, non riesce a leggere, se non lentissimamente, con grandissima fatica. E se non ha un computer per scrivere, visto che è disgrafico, non riesce a scrivere, o comunque scrive malamente e sempre con moltissima fatica. Quindi senza questi strumenti lui riuscirebbe a fare forse un centesimo della prova. È come far leggere ad un bambino miope togliendogli gli occhiali, è la stessa identica cosa. Un anno in meno al liceo e di conseguenza ingresso all'università un anno prima. La proposta anti-bamboccioni, come l'ha definita qualcuno, arriva dal rettore della Bocconi, Guido Tabellini. Ecco i vantaggi. Il vantaggio principale è quello di entrare nella vita adulta un anno prima. Vita adulta vuol dire mondo del lavoro sostanzialmente. E questo è importante perché gli anni in cui siamo giovani sono gli anni in cui siamo più creativi, più innovativi, riusciamo a dare il meglio di noi stessi, e in Italia arriviamo in ritardo a fare queste cose per una somma di ragioni. Nei confronti con altri paesi, i giovani italiani sono quelli che cominciano più tardi di altri a lavorare, a mettere su famiglie, a fare figli, per una serie di ragioni, una di queste è anche la scuola. Io ho anche l'impressione che ciò che viene insegnato a scuola possa essere compresso di più nel tempo, e quindi non credo che ci sarebbe una grave perdita di acquisizione di conoscenze, anche perché nel mondo moderno che cambia così in fretta, l'acquisizione di conoscenze dura tutta la vita, non è limitata soltanto al periodo scolastico. Ecco, qualcuno l'ha vista la sua come una ricetta anti-bamboccioni, potrebbe essere un modo anche un po' per svegliare i ragazzi, per farli uscire di casa più velocemente? Sì, adesso la parola bamboccioni ha un significato, una connotazione negativa, ma come le dicevo è un dato di fatto che l'ingresso nella vita adulta dei giovani italiani avviene più tardi rispetto a quella di tanti altri paesi a comparabili livelli di sviluppo, dove ingresso per vita adulta si intende appunto il primo lavoro, l'anno in cui uno ha il primo figlio, in cui mette su famiglia, in cui va a vivere fuori di casa, e ci sono tante ragioni per questo. Penso che questo sia un fenomeno negativo, ci sono tante ragioni per questo, la lunghezza del periodo di studi è una di queste. Ecco, qualcuno oggi ha criticato dicendo in realtà abbiamo una scuola buona che ci invidiano anche all'estero, questo è tutto da dimostrare tra l'altro, perché metterci mano? Ma purtroppo non è così buona, nel senso che i risultati dei confronti che vengono fatti dai test Ox e di Pisa rivelano che in media gli studenti italiani non sono così preparati rispetto ad altri paesi. Naturalmente c'è molta eterogeneità e ci sono sicuramente delle scuole che preparano molto bene, ma io penso che sia possibile naturalmente nell'ambito di un progetto di riforma ambizioso, rivedere i contenuti e l'organizzazione dei programmi di studio in maniera da non sacrificare l'apprendimento dei giovani, pur accorciando di un anno il periodo di studio. In passato ci hanno già provato alcuni ministri a mettere mano a questa cosa, ci ha provato Berlinguer, ha provato anche la Moratti senza riuscirci. È arrivato secondo lei il momento invece di por mano a questa riforma? Beh, se una cosa va fatta, prima la si fa meglio è. Le reazioni all'idea di accorciare di un anno il liceo. Si dice d'accordo Mario Rusconi, preside del liceo Newton di Roma. Anzitutto perché è dimostrato, non è semplicemente un'idea che spunta dal nulla, è dimostrato che già in tutta Europa e nell'Europa più progredita dal punto di vista formativo succede così e non si hanno quei guai irreversibili che alcuni paventano. E secondo poi la questione da mettere a fuoco sono due. In Italia c'è stata la contrarietà della maggior parte, per esempio, dei sindacati, delle associazioni professionali e così via, non per motivi formativi, ma in quanto una riduzione di un anno comporta naturalmente una perdita di posti di lavoro, e siccome in Italia le questioni della scuola si affrontano non in rapporto agli obiettivi formativi degli studenti, alla loro capacità di essere competitivi a livello europeo, ma in rapporto solo ai posti di lavoro che si aggiungono o diminuiscono, naturalmente c'è stato un fronte compatto che ha eliminato questo tipo di proposta che era stata fatta più di 10 anni fa. Il problema che naturalmente invece si pone a livello, diciamo così, della gestione della didattica, usiamo questi termini, è come riuscire a stringere, non dico i programmi, ma soprattutto ciò che si fa a scuola, e significa quindi aggiornare e impratichire gli insegnanti su queste tecniche di didattica cosiddetta breve che purtroppo in Italia non sono mai stati portati avanti con serietà professionale. Cioè, secondo lei non ci sarebbe un impoverimento dell'offerta a livello di didattica liceo? No, si riuscirebbe a comprimere il programma senza grosse perdite in 4 anni? Sì, ma anche perché anche soprattutto è un problema di addestrare, insegnare agli insegnanti ad insegnare. Di tutt'altro avviso Michele D'Elia, preside del liceo scientifico Vittorio Veneto a Milano, che così giudica l'idea di tagliare un anno di liceo. Pessima, peggiore non ci potrebbe essere. Se facciamo l'esempio con le scuole all'estero, dove i percorsi delle superiori sono di quadriennali, bisogna tenere presente che le scuole medie sono più lunghe. Il primo esempio che mi viene in mente è la scuola francese, dove le collège, che è l'equivalente della scuola media, è di 4 anni e non di 3. E dunque, alla fine i conti sono esattamente uguali. Evidentemente, ciò che non si fa nell'anno, ciò che noi facciamo nell'anno di collegamento, il primo delle superiori, lì lo fanno al quarto anno delle medie, cosa che avveniva anche in Italia con la sesta, la settima elementare tantissimi anni fa. Seconda ragione di carattere tecnico, didattico. Questa sarebbe un'altra compressione dei programmi, sarebbe una riduzione del tempo scuola e del tempo di studio, e porterebbe poi proprio a quella lamentela continua dei signori docenti universitari, secondo la quale dalle scuole superiori, licei o no che siano, vengono sfornati alunni che non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno parlare e via dicendo. E loro chiedono proprio ciò che potrebbe solo aggravare questa situazione. Terzo problema di carattere tecnico e sindacale. Un quinto anno di lezioni in meno evidentemente taglierà ancora di più posti. Quindi io penso che in questo momento sarebbe una cosa gravissima. Torniamo a parlare di tempo pieno, perché da qualche giorno va avanti l'occupazione, per lo più simbolica, da parte di genitori e di insegnanti della scuola Principe di Piemonte di Roma. Ci racconta tutto Saverio Guarciariello, presidente del 49esimo circolo didattico. Fondamentalmente quello che sta succedendo è che si stanno concretizzando i timori che c'erano quando è appunto stata ufficializzata la riforma Gelmini, per cui si stanno verificando i grandi tagli sul tempo pieno fondamentalmente. Nel nostro caso la nostra scuola aveva fatto richiesta per avere 6 classi a tempo pieno, 40 ore, per il prossimo anno, e purtroppo ne sono state concesse soltanto 4 e le rimanenti 2 a 27 ore, e la richiesta dell'utenza era tutta per 6 classi a 40 ore. Quindi alcuni bambini non potranno fare il tempo pieno come richiesto da loro e dalle famiglie. Esattamente, diciamo, siamo di fronte a un'alternativa che è quella di dire scusate, ma 40 di voi non possono godere di questa richiesta, oppure organizzare degli orari spezzatino utilizzando le compresenze. E questo fondamentalmente è quello che chiede l'ufficio scolastico provinciale, cioè l'ufficio scolastico provinciale ci dice: voi avete in organico un numero di ore sufficienti, che sono appunto quelle residuali delle compresenze del vecchio tempo pieno, usate quelle per garantire le 40 ore alle due classi che sono state riconosciute a 27. Cioè gli è stato detto sostanzialmente il numero di insegnanti sulle varie classi è tot, se poi lo volete tutte le classi a 40 ore dovete dividervi lo stesso numero di insegnanti? Esattamente così. E quindi prosegue l'occupazione? E quindi prosegue l'occupazione, assolutamente sì. Per ascoltare questa trasmissione come tutte le altre, radio24.it, ci risentiamo sabato prossimo.